Parliamo ora di cultura, di una libreria indipendente qui a Roma, la libreria Fahrenheit 451. Ne parliamo con Katia Gabrielli per una campagna. Katia, ci sei? Ciao e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, mi parlavi di una campagna di crowdfunding per la libreria. Ci racconti, intanto inquadriamo un po' questa esperienza storica della libreria. Beh sì, dunque, prima di tutto noi siamo nati nel 1989, quindi insomma è molto tempo che siamo sul Campo dei Fiori, e una libreria che è nata con un taglio particolare, insomma con un'attenzione nel settore di arte e spettacolo, quindi siamo particolarmente sensibili al cinema, teatro, fotografia, insomma arti figurative in generale, e credo che siamo conosciuti proprio per questo, insomma nella città. E tanti anni, negli anni abbiamo organizzato anche delle manifestazioni come Libri in Campo, c'è stata anche un'esperienza editoriale che è nata in libreria proprio, insomma, quindi è tanto tanto tempo, quasi 30 anni che siamo nella città, con l'apertura anche serale e domenicale. Credo di essere stata la prima libreria di nuovo a iniziare proprio l'apertura notturna fino a mezzanotte, cosa che adesso devo dire purtroppo sta cambiando, perché la città è cambiata e insomma ci siamo trovati in questi ultimi anni proprio a passare le sere un po' abbandonati, perché il Campo dei Fiori ha subito una trasformazione, io definirei inquietante, di cui si possono dare delle diverse letture, insomma, ma comunque ecco, la piazza è cambiata, ormai è diventato un terreno per attività soprattutto di somministrazione di bevande, alimenti, e ha perso proprio quell'anima culturale che aveva. Rimaniamo solo a fare resistenza dura noi e il cinema farnese, che anche lui è molto bravo, fa molte iniziative, insomma, sì, molti, sì. Festival, tu lo saprai perché curi quella bellissima trasmissione, insomma, che sì. Senti Katia, e a questo si sono aggiunte delle difficoltà economiche? Questo stiamo vivendo un po' tutti i librai, credo di essere la voce anche in questo momento di tutti i miei colleghi, non solo romani ma d'Italia. Insomma, ecco, notizia di adesso, proprio di ieri sera l'ho sentito, che ci saranno delle facilitazioni, non so dire molto su questa legge di bilancio del 2018, sì. Comunque sembra che si stanno rendendo conto che cioè l'Italia sarà un paese senza territori culturali, insomma senza spazi come il nostro. Noi facciamo un importante lavoro, insomma, di diffusione e di sviluppo della cultura di un paese. E quindi avete, in questo senso avete lanciato una campagna di crowdfunding. Sì, cioè, guarda, ce ne parli io un po'? Devo essere sincera, non è proprio nata dalla libreria, ma è nata, e questo è un grandissimo atto di solidarietà secondo me, che fa capire, e ci sta dando anche molta forza, perché ci fa capire anche quanto per alcuni siamo necessari. E due miei clienti di Bologna, che insomma ci conoscono un po' anche nelle altre città d'Italia, e sapendo la situazione di difficoltà della libreria, ma enorme, io tra l'altro sono, credo di essere stata forse l'unica libreria d'Italia a opporsi con un contenzioso molto forte, ne sono uscita distrutta, chiaramente ho perso contro il più grande monopolio d'Italia, il monopolio di Messaggeria Libri, siamo purtroppo andati in tribunale, ma non ho trovato aiuto pur avendo pienamente ragione. Questo è un altro capitolo, vi potrò raccontare quando volete, insomma, sì. Questa tragica storia. Comunque io ne sto pagando le conseguenze con rate eccetera. In tutta questa storia delle difficoltà della libreria, questi miei clienti mi hanno detto basta, adesso dobbiamo intervenire, dobbiamo fare un crowdfunding. Io li guardavo esterrefatta e la mia lettrice cliente, insomma, ha offerto per la libreria un romanzo, conoscendo anche la mia passione per la Comune di Parigi, non anche scritto una cosa in passato, mettendo in relazione Proudhon e l'estetica di Proudhon con la Federazione degli Artisti durante il periodo della Comune di Parigi. E quindi lei ha scritto un noir ambientato nei giorni della Comune e l'ha offerto per questa campagna di crowdfunding in aiuto della libreria. e hanno proprio preparato loro la pagina, tutto quanto, per cui io mi sono trovata con questa esperienza nuova e mi sono lasciata andare, devo dire è molto bella, mi dà anche un po' di coraggio, mi fa capire anche quanto noi siamo indispensabili, che veramente noi ci siamo sentiti abbandonati, tutta questa sofferenza, tutte queste tragedie economiche, ma ha senso, cioè serviamo la città, siamo utili? Io credo di sì, noi facciamo un lavoro enorme, il lavoro sia di proposta di libri nuovi, sia di libri legati al modernariato, all'usato, alle prime edizioni. Se vengono i lettori disperati dicendo solo voi ci potete aiutare, aiutatemi a trovare questo libro, e noi lo facciamo. Spesso riusciamo anche a risolverlo, insomma, il problema. E questa è la mia vita, io 30 anni fa, insomma, la mia missione, la mia militanza, secondo me, anche reazione di opposizione a una realtà che vuole solamente dei supermercati, con sappiamo. Il turismo di consumo, sì. Senti, Katia, ci lasci tutti i riferimenti web per partecipare, sì, informarsi? Grazie. Dunque, allora, la campagna è nel sito delle Produzioni dal Basso, ci sono ancora 25 giorni, poco tempo, abbiamo bisogno proprio del sostegno pratico e morale, molto importante per me anche quello morale, insomma, dei lettori, degli amici di Fahrenheit, e si chiama Il romanzo della comune, Produzioni dal Basso, Il romanzo della comune, oppure si può mettere Fahrenheit e trovate un po' tutto quanto, viene spiegata le diverse possibilità, noi diamo in cambio, insomma, la lettura di un libro che può essere sia in PDF o cartaceo o in edizione lusso, con dedica, insomma ci sono varie possibilità. Bene, Katia, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci appresto per degli aggiornamenti. Grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti, ciao.